Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ho appena scazzato al telefono con mia moglie e ho avuto una giornata di merda. Ma tra 10 minuti inizia la zanzara e tutto passa. Non succede, ma se succede, ragazzi. David, sono con una maglietta nera, con la faccia di trampone di Donaldone, guardami. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Amica mia. Che sfascio. Non succede perché non succede, pare che stia pure rimontando la signora Hillary. Comunque, magari, speriamo. No, pare, guarda, che stia rimontando. Ma sarebbe se succede un disastro epocale, mettere in mano a un signore così i codici del nucleare. No, certo, le televisioni, le radio avrebbero di che vivere, va bene, per degli non anni. Non succede, però. Ma se succede. Però esiste il bene della credo nazione. Credo io, ripeto, anche, ripeto. Allora, la nazione quale? Scusa, l'America, ma che no, cazzo me frega? Certo, allora, uno. Come che uno ti frega? Ma è il destino, aspetta, del mondo, no, in mano a uno così. Una sola cosa. Ho detto già, l'avevo già ma detto. Ma tu seriamente voteresti Trump se fossi negli Stati Uniti? Tutta la vita. Astinenza sessuale, io personalmente non un frega razzista, niente. Un razzista misogino, ma pazzesco. Che razzista misogino? Incredibile, di una volgarità. Ma quale volgarità? Una volgarità. Ha reso possibile dire qualunque cosa. Qualunque cosa. Ma non dire stupidaggini. Ha reso possibile. Ma non dire cosa dire qualunque ma che vuol cosa dire? Ma cosa vuol dire? Qualunque cosa. Ma dici tutte parole scontate. Beh, scusate, vai a vederti le parole d'ordine che ha usato in campagna elettorale contro, contro i messicani. Comunque, contro, ragazzi, gli immigrati. Ma non succede, non succede. Ma se succede, astinenza sessuale per 2 mesi innanzitutto. E mi sono ripromesso di comprare una bottiglia di champagne oltre i 250 euro. Oltre i 250 euro. Questo così per l'antipasto, poi domani decido cos'altro offrire, cos'altro offrire. Non succede, ma se succede. Anzi, ditemi voi, magari suggeritemi qualcosa che non mi sia venuto in mente. Ormai, come sapete, mi è venuto in mente quasi di tutto, Parenzo. Quasi sì, di no, tutto. Però suggerite, di questo, suggeritemi voi, suggeritemi voi. Intanto questa trasmissione nel suo piccolo ha contribuito, la cosa, devo dire la verità, Parenzo, non è che mi soddisfa in pieno, perché quando si spegne una voce, quando qualcuno viene cacciato in maniera ipocrita, in questo caso da Radio Maria, come è successo a Padre Cavalcoli, il tizio che ha detto, no, che i terremoti sono provocati, sì, sì, dall'incazzatura del divino per le unioni gay, no, non sono particolarmente contento, credo che ci sia spazio anche per l'imbecillità. Cioè l'imbecillità, la coglionaggine, le stupidaggini hanno diritto di essere pronunciate, soprattutto quando le stesse identiche cose sono state dette dal direttore di quella radio e soprattutto è una cosa a cui credo tutti gli ascoltatori di Radio Maria, amico mio, tutti ci credono, il direttore le fa proprie e le ha dette più volte, ne ha dette anche di peggio sullo tsunami eccetera, ed è stato cacciato questo poveraccio, questo signore domenicano. Che poveraccio. Ma sì, ma alla fine è una piccola pedina. È stata cacciata, no, dalla chiesa stessa, però, perché allora, so, in tre anni, ma questa cosa è una cosa che avevamo già detto tempo fa. In 3 anni Radio Maria, per dire le cazzate che fra poco riascolteremo di Padre Cavalcoli, in 3 anni ha preso 2 milioni di euro insieme a Radio questo Padania. È pazzesco, 2 milioni di euro. 2 milioni di euro. Io dico se solo la può questo pagare il Vaticano sta radio, scusa. Ma non questo è del Vaticano ufficialmente, è di un signore. E no, appunto, se la pagasse il Vaticano questa radio, scusa. Ma no, ma non è ufficialmente del Vaticano. Il finanziamento pubblico lo devono prendere i partiti, non ma quelli attraverso dei magheggi vari che non ti sto qui a ripetere perché sono cose complicate. Paradossalmente aveva più diritto, e mi duole dirlo, siccome io sono a favore del finanziamento pubblico, paradossalmente aveva più diritto Radio Odio che non Radio Maria, ma per una semplice ragione, perché Radio Odio fa Calabria, dici Radio Calabria. Oggi Radio Suraci Calabria Libera. Cioè, voglio dire, oggi aveva più diritto quella radio della Lega, perché non dire più così, la radio di Calabria Libera, dai. Ecco, piuttosto che Radio Maria, su questo io sono a favore del finanziamento pubblico. Risentendo le mie parole, tutto sommato è un'opinione legittima. Dunque? Non vedo che ci sia. Ma dunque si può pensare anche che sì, il terremoto possa essere un richiamo, anche un castigo per i peccati degli uomini. Questo senso. Cioè, e le unioni gay sarebbero dei peccati, lei dice? Ah, ma si capisce, oh, adesso questo è chiaro. Omosessuali contro natura. No, voglio sapere, per lei un omosessuale chi è? Ma si ripassi l'etica cristiana, no? No, ma chi è un omosessuale per lei? Un omosessuale è una persona che pecca contro natura. Sì, cioè un contro natura, diciamo. Certo. Ma due uomini che stanno insieme, per lei cosa sono? Finiremo come Sodoma e Gomorra. Che può succedere con l'adozione gay? Ma che può succedere? Mai letto la storia di Sodoma e Gomorra? Cioè? Ma come? Ma si studia la Bibbia, ma sanno tutti, no? Appunto, cioè che succede? Sodoma e Gomorra, perché vengono castigate? Per i peccati degli uomini. E dunque l'Italia verrà rasa al suolo, se ci dovesse essere. Rasa al suolo. Certamente che il castigo esiste, ma questo senz'altro. Adesso ho capito come le... E siccome il Vaticano ha condannato, deve ripassare il catechismo. Papa Bergoglio la pensa allo stesso modo? Ma questa è la Bibbia. È la Bibbia. Dovrebbe, dunque lo pensa allo stesso modo, secondo lei? Sì. Allora, il Vaticano chiede scusa ai terremotati. No, è la notizia di apertura. Terremoto, virgola, il Vaticano condanna Radio Maria. Parole offensive e scandalose. Lei dice ripassino la Bibbia, allora? Sì, si ripassino il catechismo. Forse questa piccolissima frase, Parenzo, in chiusura dell'intervista che abbiamo fatto, ha contribuito, forse, sono sicuro perché me l'hanno detto, alla cacciata indegna, secondo me indegna, del signore domenicano che si chiama Cavalcoli. Indegna perché la pensa... Se ne andassero tutti, chiudessero bottega! Ma di che parliamo, dai? Chiudessero bottega loro, ma la pensano allo stesso modo! La pensano allo stesso modo! Però magari è andato un po' il signor oltre, Fanzaga, lui. Che io rispetto perché ognuno deve ha il diritto anche di dire quelle cose lì. Il signor Fanzaga la pensa allo stesso modo, eppure sta lì! La pensa allo stesso modo, se ne andasse lui! Hanno scelto il pesce piccolo, hanno cacciato il pesce piccolo, se ne andasse lui lì da erba, andasse in pensione, facesse il cazzo che vuole. Se devono cacciare il pesce piccolo, lui chiudessero bottega, no? La pensano allo stesso modo! Dai, su, solo perché il Vaticano ha dato il buffetto, così lo schiaffetto, dai. Non c'hanno i coglioni, dai, non c'hanno i coglioni. Colpirne uno per educarne 100. Ottimo. Allora, Berlusconi, poi Renzi, parliamo, tutto, non c'è niente di nuovo in realtà, comunque. Tornato Berlusconi, sì, tornato. Sì, Berlusconi è tornato. Ha detto una cosa incredibile, che adesso parla su Facebook, no? Ha scoperto, sì, Facebook. Video su Facebook. Con la riforma Renzi ha diviso in due il paese. Scusa, amico mio, però. Sì. Berlusconi. Era la tua specialità. Cioè, a me la cosa che mi fa impazzire è questa. Cioè, Berlusconi rimprovera a Renzi le stesse cose che ha sempre fatto. Cioè, divide in due il paese. A parte che è normale dividere in due il paese quando, no? quando si prende una posizione. Su quei temi là è chiaro. Ha diviso in due il paese, amico mio, ma sei il simbolo della divisione in due del paese, secondo me è giusta, ma sei il simbolo, ma che rimproveri a quell'altro, dai, è una cosa veramente ridicola, dai. Ha pensato a questa riforma, l'ha voluta tenacemente, l'ha imposta al Parlamento guardando solo a se stesso e al Partito Democratico. Si è voluto cucire un abito su misura a costo di spaccare in due il paese. Allora, no, ma l'altra cosa incredibile che dice Berlusconi pulpito, è che... No, ma sì, è una cosa pazzesca. Se un parlamentare cambia partito si deve dimettere, scusa amico mio, però va bene. Ma scusa, ma hai costruito anche uno degli ultimi governi, anche altre situazioni, col passaggio dei parlamentari? Anche gli altri l'hanno fatto, per carità. Sì, ma l'hai dubbio. Fatto pure tu. Hai preso parlamentari che vengono dall'altra parte, adesso dici che quello che non sia... Non c'è dubbio. Dai, su, ma non è possibile. Deve contenere l'obbligo per i parlamentari di rispettare la volontà degli elettori. Se un parlamentare cambia schieramento si deve dimettere, che è la stessa cosa che dice Grillo peraltro. Comunque, Allora, ho visto. Io sono d'accordo su questo. No, assolutamente no, ma non è possibile farlo. Abolire dai. Il senza vincolo di mandato, che come sai è una norma costituzionale. Sì, per cui, sì, per carità. Se si abolisse quello, si eviterebbero, allora, i cambi di casacca. Come sapete, ci sono, l'abbiamo già detto, c'è una incredibile norma del bilancio della Camera che dà per la somma di 350.000 euro, che sono poche naturalmente nel bilancio dello Stato, comunque sai, è sempre una cifra, l'assicurazione gratis ai deputati, anche se questi deputati, che ne so, si prendono un'insolazione, si prendono una malattia tropicale, se gli viene un coccolone, eccetera. Ora, molti deputati hanno l'assicurazione loro, naturalmente, magari non lo usufruiscono, soprattutto non sanno quello che c'è nel bilancio dello Stato. Bianconi, arrivano le telecamere della D'Urso, no, di Canale 5. Bianconi, nostro amico Bianconi, reagisce in questo modo, senti. Andare tutti a fare in va bene? E per quale motivo? E perché scusi? Potresti un modo non di nominare i deputati, ma di nominare la democrazia. Ma lo chiedi a me, è la Camera che li fa. Dovete andare tutti a fare in culo. Che gli hanno chiesto, scusi, lei sa che avete un'assicurazione, no, in caso di malattie, eccetera, eccetera, che costa ai cittadini 350.000 euro? E quello che dovete andare a fare in culo. Ma scusi, ma lo sa o non lo sa? L'hanno fatto la Camera, ma tu sei alla Camera, caro Bianconi. Lo dovresti sapere, il bilancio della Camera uno dovrebbe conoscerlo. Altri manco lo sanno, c'è uno del che adesso è passato con Verdini, che si chiama Brignani, no? Senti, senti. Brignani, come Brignani, senti. Cioè. Com'è che avete l'assicurazione per la, anche per la guida in stato di ebbrezza? Te dà una notizia che non sapevo, noi abbiamo. Te lo dico io. E tra questo avete anche lo stato di ebbrezza. Beh, insomma, evidentemente io penso che. Insomma, l'ha mai usata? No, e anche perché penso che un parlamentare dovrebbe almeno avere un minimo di sobrietà. Crucià, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguibile. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento La Zanzara. La mia ragazza dice che qua, da quando ascolto La Zanzara non gli piaccio più, che sono diventato peggiore. Perché succede questa cosa qua, Parenzo? Cioè è incredibile, eh? Cioè, è pazzesca come cosa. Beh sì, perché ti degrada lo spirito. Ma, ti degrada... Ma al contrario, ti accende lo spirito. Libera, com'è lo slogan di Radio 24, che me lo so, sono già scordato. La libera, passione, libera, no, la voglia di fare. Libera la voglia di fare, sì. Libera la voglia di fare. Quindi già te l'hai riscordato. A me piace anche la passione, si sente, perché quello, ecco, è il vecchio. Però libera la voglia di fare vuol dire che libera tutte quelle energie, sì, del fare che. Che, di andare che, a fare il culo. Che, no, libera la voglia di fare, cioè di fare, di intraprendere, di mettersi, sì, al servizio del paese. Allora, anche, forse. Non è normale, ma, secondo me, non è normale, secondo me, che il presidente del Consiglio si metta a discutere con un quello che alla fine è un giornalista. Certamente è un opinion leader, no, signor Travaglio? Però non è normale, non è normale. Secondo me un presidente del Consiglio dovrebbe estraniarsi da queste cose qua. Dovrebbe fottersene alla fine di quello che sostiene un giornalista, un direttore di un giornale. Perché di questo si tratta, anche se spesso è a capo, diciamo, di correnti di opinione, no? Beh, rappresenta un pezzo di paese, sì, vedrebbe bene, no? Sì, sì, ma è un pezzo di paese, cioè, però rappresenta in realtà un sentire, sì, di una parte del paese. Il presidente del Consiglio di un... Sì, ma questo non c'è dubbio. Il presidente del Consiglio di un paese dovrebbe essere al di fuori di queste robe qui. No, beh, dovrebbe... ma perché? Ma sì, non si dovrebbe mettere a polemizzare in un paese normale. Cioè, non è che Obama si mette a polemizzare con il direttore, che cazzo ne so. Ma del... l'ha fatto col quello dell'FBI, non lo può fare con un quotidiano. Della? Obama l'ha fatto con l'FBI per la pubblica, cosa per la... l'FBI, che c'è? No, che Obama, ma che ha polemizzato addirittura con l'FBI. Ma l'FBI è una cosa, il presidente di un giornale per la inchiesta poi archiviata. Scusa, sulle ma sono due cose del... diverse. Io sto, no, dice... per dirti che ha polemizzato anche con la, alle volte con l'FBI, i giornali, ma della il giornale... destra, ma quando mai? Ma quando... O Tony Blair polemizzava, ma... ad esempio, senti, con i direttori dei giornali scandalistici, ma... della destra, no, del signor Murdoch, ad esempio. È una cazzata quello che lo fece. No, Blair polemizzò moltissimo con i giornali. Io ti sto dicendo di semplicemente, no, assolutamente no, mai con toni personali rivolti ad un singolo giornalista. Renzi sbaglia, al di là delle ragioni e dei torti, perché il presidente del Consiglio di un paese non deve mai polemizzare direttamente con uno dicendogli che è un leone da tastiera, che abbassa gli occhi. Ma che cazzo ce ne frega a noi? Cioè, l'oggetto della discussione è politico, non che quello è un leone da tastiera, cioè, o sarebbe un leone da tastiera, secondo Renzi, cioè Travaglio. Dai, è ridicolo, dai. Esprimendo un giudizio, magari sfogandovi come fanno i leoni da tastiera sui social network, quelli bravi a scrivere, poi ti capita di incontrare qualcuno di questi in trasmissione, non riescono ad alzarti gli occhi, non riescono a guardarti negli occhi. Ogni riferimento a Marco Travaglio è puramente casuale. Quando c'è da scrivere, sono tutti buoni. Poi li guardi negli occhi, dicevo. L'ho trovato un riferimento ridicolo che non ha senso, cioè sono piccole cose personali ma sono cose personali che non fanno onore al Presidente del Consiglio. Uno dovrebbe fottersene di queste diatribe, non frega un cazzo al paese i rapporti tra Renzi e Travaglio, non fotte nulla, niente, zero. Nando da Roma, vai. Dimmi. Stavo riascoltando le parole di padre Cavalcoli. Sì. Se il nostro Signore ha scatenato tutto questo putiferio per la causa dell'unione omosessuali, mi domandavo che cosa succederà quando il Signore si accorgerà dei preti pedofili. Però leggendo il Vangelo, su questo c'era una battuta bellissima nei giorni scorsi, era questa: la scienza secondo Radio Maria, unioni civili uguale terremoto, aborto uguale alluvione, cioè produce alluvione, il divorzio l'uragano, le molestie sui minori, cioè la pedofilia, mite giornata di sole. Infatti, però su questo devo dare ragione a padre Cavalcoli, perché leggendo il Vangelo c'è scritto: fate che i fanciulli vengano a noi, e qui è tutto giustificato. Va bene, Mario Monza, vai. Mario, ciao Giuseppe. Dimmi, Mario. Ciao. Senti, due cose. Volevo dirti due cose. Adesso me ne è venuta in mente una, sentendo quella dell'RC auto coperta per la guida in stato di ebbrezza, che è una cosa non così eccezionale. Ce l'hanno tutti praticamente. In quel caso lì c'è semplicemente il fatto che il Parlamento ha a pagare 350.000 per l'assicurazione dei parlamentari, che probabilmente ma è uguale, non c'è un sovrapprezzo, non è nulla. Ma chi se ne frega della cosa tecnica? Dai, Mario, dai. La cosa da ridere. Adesso parliamo di Parenzo, che per fortuna che lo stai massacrando stasera. No, veramente non lo sto massacrando per niente. Siamo qui pronti. Hai detto prima che diceva stupidaggini. Ma che c'entra? Ma secondo me. Allora? Ma venerdì sera, ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Uno che va a puttane si prende mezzo anno di stipendio di multa, 10.000 euro, e difende sempre. Difende sempre gli immigrati, volevo capire qual è la presunta difesa degli immigrati e la multa, non capisco perché difende sempre gli indifendibili. Ora io capisco che lui debba fare odio, probabilmente lo fa per quello, però volevo dico quello che penso, ma non è, tu veramente sei convinto e difendi sempre. Io sono convinto di una cosa, che lei è il primo idiota della serata, perché prima ha chiamato uno, sono le 18.53, in genere arrivano dalle 19.20 in poi, dopo il telegiornale si preparano, si caricano. No, arrivano sempre dopo, perché invece, ha battezzato questo nuovo corso della radio, per cui alle 18.53, prima del telegiornale, ha chiamato il primo idiota, che in genere interviene dalle 19.20 in poi. Quindi siamo pronti. Ora andiamo avanti. Marco Bologna, vai. Ora andiamo avanti. Marco, dimmi. Buongiorno ragazzi, buonasera ragazzi. Dai, dimmi, basta questo buonasera. Volevo dire che io ascolto Radio Maria e lo ritengo lo spettacolo più spassoso dopo il vostro. Pensa come stai messo. Anni. E la linea editoriale di padre Livio è quella lì, cioè non c'è niente da fare, è quella. Ma se volete ridere il terzo sabato del mese, dovete ascoltare l'avvocato della Sacra Rota. È una roba da pisciarsi addosso del ridere. Tutte le scuse possibili e immaginabili per mollare la moglie. No, scusami, al contrario, dovrebbe essere. Mica sono a favore del divorzio, i signori di Radio Maria. Tu dici per. Quello lì è il passaggio obbligato, lì ti istruiscono. Ma poi c'è questa ragazzina che si chiama Roberta, che attrae tutti questi poveri pensionati, tutti questi poveri disgraziati che hanno delle disgrazie. Sa, mia moglie ha un tumore. Tranquilla, non si preoccupi, sia forte, sia brava, e così insomma. Vabbè, ciao. Comunque ha ragione Marco, perché questi qua sostengono le stesse cose che ha detto quello che hanno cacciato. Cioè, come se io dicessi, cazzo, ma Confindustria è una figata, oh. Cioè, no, ma il presidente di Confindustria è un gran figo, è un grande imprenditore, eccetera, e mi cacciano. Ma scusa, dico la stessa cosa che dite voi, uguale, identica. Scusa, perché mi avete cacciato? È ridicolo, ma è così. Ma dico, non lo so, pubblicità, GS4, traffico, il meteo, il lotto, vogliamo fare 2 ore e mezza di minchiate e poi ogni tanto così, 2 puntatine di zanzara nel mezzo. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento La Zanzara. Ciao Zanzarone, sono una studentessa di psicologia e oggi ho fatto ascoltare La Zanzara alla mia compagna di stanza. Questo perché ovviamente metà dei miserabili che telefonano in trasmissione in futuro saranno nostri pazienti. Parento, sono in pausa pranzo e sto tornando a casa. Comunque volevo dirti, per ogni coglione che telefona e ti insulta, sappi che ce ne sono 10 che stanno tutti dalla tua parte, eh. Forza Parento, vai! Comunicato dall'ala parenziana di Londra. Londra. Parenzo, siamo tantissimi, siamo silenziosi, non ci vede nessuno, non ci facciamo sentire, ma siamo moltissimi e vogliamo tantissimi immigrati in Italia, non a Londra, in Italia, tantissimi immigrati e vogliamo requisire tutti gli alberghi. Vai avanti così, Parenzo, siamo tantissimi tutti con te! Parenzo, le tue urla sono davvero un godimento! Viva Parenzo, viva Parenzo! La maggioranza silenziosa ogni tanto parla, ogni tanto no, si esprime. Ma c'è di più, perché il loro silenzio urla nelle orecchie dei miserabili. Il silenzio assordante di questa maggioranza, che non dico per bene perché non è che si autodefinisce per bene, ma di questa maggioranza, sì, è urla, spacca i timpani nel silenzio assordante. Non, sì, abbiamo bisogno di urlare perché abbiamo gli argomenti, la razionalità, le cose. Non c'è bisogno di urlare, da oggi non si urla più, non c'è bisogno perché quest'urlo silenzioso sta, sì, già dilaniando il clamore dei razzisti, degli xenofobi, dei pazzi, degli intolleranti. Li ha già distrutti, annientati. Possono soltanto latrare. Hanno solo questo posto dove latrare. Solo questo posto dove latrano e berciano, come diceva la Fallaci. Possono berciare e latrare qua. Ma la maggioranza del paese urla in silenzio la propria indignazione rispetto a questo schifo, rispetto a queste fogne che si aprono e di cui si sente un odore pesante che, allora, apparentemente insozzisce tutto il paese, vabbè, ma no, in realtà no, in realtà. Allora, insozzisce in questo caso, non lo so. Sì, comunque, no, insozza, cioè. Vi do una notizia che farà molto discutere. Uccise un ladro albanese in fuga, carabiniere condannato a un anno. Allora, amici miei, il GUP di Ancona, Francesca Zagoreo, Zagore, non so come diavolo si chiama, questo magistrato ha condannato a un anno il carabiniere, e stiamo parlando di un carabiniere, che uccise un ladro albanese in fuga. Fermo, che fai? Tiri su col naso, che fai? Sì, ma cosa vuoi fare? Che notizia è? La tragedia scaturita dal rimbalzo del proiettile sull'asfalto, che poi penetrò nella parte sinistra dell'unotto posteriore, ferendo mortalmente la vittima, un tale Korab Xeta, 24enne albanese, si consumò la sera del 1 febbraio dello scorso anno. Secondo i PM vi fu un eccesso colposo nell'uso dell'arma da parte dell'imputato, che è un carabiniere, e aveva chiesto un anno e otto mesi. Ragazzi, un ladro scappa, uno spara, il proiettile colpisce il terreno, poi va a finire in testa probabilmente di questo ladro albanese, condannato a un anno il carabiniere. Fate voi, non lo so, ditemi tutto quello che volete, ditemi, sfogatevi. Qui siamo impazziti, il Partito Democratico, qui alcuni del Partito Democratico veramente non hanno nulla da fare in Parlamento e propongono dei progetti di legge assurdi. Alcuni vogliono negare la piazza all'estrema destra, cioè fare una specie di lista di proscrizioni messa in un disegno di legge. No, non è esattamente come così. No? Basta manifestazioni di movimenti che si ispirano all'estrema destra, al fascismo. Al fascismo, appunto, certo. Ma questa è un'applicazione di una norma che esiste già nella Costituzione. Tutti devono poter manifestare. Che recita, vado a memoria così, è vietata sotto qualsiasi forma la ricostruzione del partito fascista. Se non basta la Costituzione, se non ti basta la nostra carta fondamentale, la Costituzione. Se secondo te Forza Nuova non può fare manifestazioni? C'è sempre per la legge Mancino. Forza Nuova non può fare manifestazioni. Forza Nuova è al limite, perché spesso nei suoi manifesti di propaganda ha fatto riferimento a campagne apertamente razziste, ad oggi condannabili dalla legge in vigore. Allora, fermo là. C'è un'altra deputata del Partito Democratico che invece, come non è la sola naturalmente, che vuole proporre addirittura la punizione dei clienti delle prostitute a livello nazionale, ma non solo la punizione qualcosa di molto con serio, dei denari, con da 2.500 a 10.000 euro, ma propone anche se uno reitera, se uno va due volte a puttane, il carcere. Ottimo. Ed eventualmente puoi togliere sia l'ammenda che il carcere attraverso la rieducazione. Mi pare perfetto, lavori socialmente utile. Se perfetto. Tu però ripeti di nuovo, cioè per la terza volta vai a mignotte in sostanza, tutto cancellato, galera. Non c'è dubbio. Galera per chi va a tutto questo cosa. Proposto da un deputato della Repubblica che pensa in questo modo di eliminare la tratta delle minorenni o di non so che cosa, che è già condannata dal nostro ordinamento. Ah, ragazzi, è una cosa pazzesca, guarda, una cosa pazzesca. Enrico Cuneo, vai. Ciao Cruciani. Non sento, sei in viva voce, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Volevo dirti che mi piacevi tanto quando conducevi da solo. Ma amico mio, sono passati 7 anni, ma che c'hai? Lo so, io arrenditi, amico mio, arrenditi. Sono passati 7 anni, non romperci i coglioni. Dai, su, Enrico. Dai, dimmi, dai. No, niente, dai, ti volevo fare sempre i complimenti. Ma chi se ne frega, ma vattene, passa. Ma spendi i tuoi soldi per chiamare, anzi no, perché non si spendono i soldi per cose migliori. Fai i complimenti, era meglio quando stavi da solo. Ma che ce frega, dai, Salvatore da Messina, dai. Vai, dimmi. Niente, volevo dirti che qua siamo alla frutta, perché tutti giudicano, tutti condannano, tutti dicono la sua, che poi se andiamo a guardare cosa dice la Bibbia, sì, è vero che nel Vecchio Testamento era un po' vendicativo, cercava di sistemare le cose che non andavano bene. Io non ho capito, Salvatore, non ho capito cosa vuoi dire, perché non è chiaro. Ti stai riferendo al prete no, della settimana scorsa, al prete, no? Un po' a tutti questi che giudicano, allora, che danno giudizi sulle prostitute, sui gay, su questo e su quello. Ma tutti con diamo giudizi su Gesù tutto. Cristo, che è morto sulla croce per i nostri con peccati, la venuta di Gesù Cristo è cambiato tutto. Tutto è cambiato. Cioè, sì, sono passati anche dei secoli, insomma. Quello è cambiato sicuro. Vabbè, però basta accettare Gesù, ti perdona tutti i peccati, giustamente. Che vuoi dire? Ma cosa vuoi dire con questa frase, Salvatore? Non stiamo davanti al prete, qui non siamo a messa. Che vuol dire da quando è arrivato Gesù è cambiato tutto? Voglio dire, spiegami. Quelli che giudicano e condannano non è corretto. Ma condannano chi? Cosa? Cosa? A morire come? Sulla croce per i nostri peccati. Ma questo, vabbè, tu sei credente e pensi che sia così. A me non me ne può fregare di meno, e non penso che la mia. Ma è anche giusto quelli che condannano tutti, che si sentono loro dei santi quando Lorenzo, poi mi stai dicendo degli ipocriti e fanno altri peccati perché l'invidia, l'avarizia. Cosa o... sta dicendo o... questo secondo te, Davide? Francamente, non ho capito niente. Cioè, ho capito che si rivolge a quel. Non ho capito i peccati capitali, non ho capito niente. Francamente, nulla. Non si è capito nulla. Massimo D'Alecce. Io non ho capito nulla, però magari. No, nemmeno io, nulla. Massimo D'Alecce. Massimo D'Alecce. Vai, Massimo. Buonasera. Dimmi. Buonasera, scusami se vi interrompo. No, ma tu scusa, hai chiamato tu, scusami. Sì. E che ti devi scusare? Scusi. Se uno chiama, mi scusi, ma che è? Cioè... No, va bene. Senta un po'. Sì. Non vi fate schifo a guadagnare quei soldi in questo modo, siete due esseri ignobili. In che senso, scusami Massimo? Nel senso, stiamo attraversando un periodo delicatissimo dal punto di vista dei valori, dei principi, e voi vi mettete a sparare a zero su una croce rossa dicendo puttanate dalla mattina alla sera. Scusa, scusami, perché amico mio, fate conto su quegli stronzi, sì, che seguono voi, che si vogliono sbellicare, scusa, dalle risate. Ma cosa ti riferisci, sono Massimo? Al caffè. Cosa, ma le stronzate su tutto, fate dei discorsi costruttivi, ma non vi schifate, scusa, a guadagnare soldi in questo modo. No, non ci schifiamo per niente, non, no, ci schifiamo, ma peccato, per niente, perché siete veramente degli esseri ignobili. Aspetta, lei ripetiamolo, è quello che ha a fianco, ripetiamolo insieme, ripetiamolo tutti insieme, siamo, com'è la cosa Massimo? Hai capito, siamo perfettamente degli bene, esseri ignobili, sì. Lei è quello che ha a fianco. Sì, tra eccoci qua. Ti senti ignobile, Davide? Ti senti ignobile? Ma sentendo lui anche no. Cioè io dico sempre questo: se mi considero mi deprimo, se mi paragono mi esalto. Perché guardandomi intorno non c'è nessuno tanto meglio, sì, specie ad ascoltare lei. Se mi considero mi deprimo, se mi paragono taccio, mi esalto, no? Però io le dico questo: quando l'ignoranza urla, l'intelligenza tace. E allora? E dico anche, è questione di stile. Sì. Signori si nasce, voi non lo siete. Sì, Massimo, perché urlate dalla mattina alla sera. Sì. Fate schifo tutti e due. Facciamo schifo tutti e due. Facciamo e poi c'è schifo. Quell'altro che parla del primo idiota che ha telefonato prima, perché in genere arrivano le telefonate. Ecco qua, infatti, in genere, ma grazie a questi infatti, idioti che voi state guadagnando dei soldi, ve li infatti, state rubando. E infatti io la voglio ringraziare per aver chiamato. Grazie, sì, molte per aver chiamato. Che fate schifo. No, perché lei è un idiota. No, perché lei è un idiota, esatto. Grazie per aver chiamata. Piacere, lei, Parenzo. Lei è un idiota e dunque contribuisce a questa trasmissione, contribuisce al successo di questa trasmissione essendo un totale idiota. Chiaro? Idiota! Beh, sì, idiota. Piacere, sì. Parenzo. Ma no, perché se l'è dato da solo. Non si capisce. Te lo stai perché dando da solo, Massimo, scusami. Idiota te e chi vi paga a fare quelle trasmissioni di merda. Scusa, ma è un disco rotto questo qua, è vero? No, credo che sia vero. Che per... Fermo lì. Più parla, Massimo, più aumenta non il cachet. Non però te ne andare, però, scusa, resta con noi. No, così resti, altrimenti crolla l'ascolto, rimane ancora un attimo. Mi fa piacere sentire, idiota, fate schifo, da Lecce, stupendo. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. È semplice, se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 717 1701. Siamo al top. Allora, caro Parenzo, durante l'intervallo della trasmissione devo farti una confessione. Sono andato ai soliti bagni della Price Waterhouse and Cooper, sì, qui accanto. Come sai, questa azienda che si occupa di revisione di bilancio e tante altre cose, perché i bagni oggettivamente sono più puliti di quelli del Sole 24 Ore. Per motivi che non so spiegarti, ma è così oggettivamente. Dunque a me basta fare 2 metri in più, andare dall'altra parte del corridoio. Forse perché andare ci lavorano più donne. In genere no, i bagni sono più puliti perché è vero, dove sono le donne. Quello è vero, però i bagni delle donne, i bagni degli uomini alla Trump sono sporchi. No, che c'entra Trump? C'entra sempre Trump, sporcaccione. No, no, assolutamente. I bagni degli uomini sono notoriamente più sporchi. No, sempre. Ma non credo che ci lavorino più donne, non è, anzi, al contrario, credo. Allora, purtroppo devo confessarti una cosa, infatti devo chiamare l'ufficio pulizie perché c'è un numero di telefono, l'ufficio pulizie della che tu puoi chiamare direttamente per ogni esigenza, c'è scritto di pulizia dei bagni, puoi chiamare un numero, però è fino alle 17. Cioè, a un certo punto, mentre ero in bagno e stavo facendo la pipì, mi hanno chiamato al telefono, sì, e naturalmente mi sono un po' distratto. E purtroppo è successo quello che è successo, cioè ho un po' allagato intorno, no? Cioè, intorno alla tazza del CS. E che devo fare? Amico, non ti ma succede mai. A ti succederà però qualche volta, no? A te, ti succederà. Ma, francamente, sto sì, attento, no. Vabbè, attento ma, non mi succede mi mai. Mi hanno chiamato al telefono. Allora, mi devo scusare con i signori della Price Waterhouse. che magari sono entrato in quel bagno e dopo hanno trovato un po' di casino perché andavo di fretta e non ho potuto rimediare. Ma che schifo, volevo... uno sporcaccione. No, ma, prima, ma mi è successo, scusami, mi è successo una cosa che racconto tranquillamente. Ma almeno posso... stai zitto, di che è stato. No, però ho notato Mercù. Una cosa, questa di è la prima. È stato Mercù, no? La prima parte Andro Mercù. No, la prima parte è questa qua, la seconda parte è un'altra. Ho notato, questa è una cosa alla Di Martedì, servizi sull'igiene di Di Martedì. Cioè tu praticamente quando vai poi a pulirti le mani al rubinetto, perché io ogni tanto non sempre mi ricordo, però 90% delle volte vado a pulirmi le mani. Ma è una roba schifosa. Aspetta, tu però all'inizio tocchi il rubinetto, no? Cioè quello lo tocchi, certo, il rubinetto, anche non lo sciacquone. No, non ma hai io dei infatti guanti. Ho un metodo. Non hai io dei uso guanti. La carta igienica anche per tirare lo sciacquone, infatti. Ah, perché non pigi là con la cosa, dici. No, non pigi col dito, no. Perché hanno pigiato tutti, anche altre persone che hanno pigiato. Hanno pigiato in un momento critico, specialmente. No? Ecco, ho notato quindi... questa cosa qua. Che tu, praticamente, non ho notato sullo sciacquone, ma sul rubinetto. Tu vai sul rubinetto, metti la mano sul rubinetto per aprirlo, e la stessa mossa l'hanno fatta tante altre persone che sono andate prima a pisciare. Beh, dunque, cioè, quella sicuramente, se facessero delle indagini alla Di Martedì, Floris potrebbe mandare i suoi uomini a fare un'indagine sul rubinetto, sul rubinetti dei bagni. Beh, lui per forza trova tutto, perché troverebbe di tutto nei rubinetti dei bagni, eh. Scusi, quello che ci ha dato prima dei cialtroni, dei miserabili, eccetera, che si chiama Massimo da Lecce. Lei si lava le mani dopo aver fatto la pipì, caro Massimo? No, io ho sentito la sua disquisizione sui bagni. Lei sì. Diceva che è andato prima a pisciare, giusto? Sì, sì. Perché non va a cagare? Ma scusi, ogni tanto ci vado, non è che me lo può dire lei? No, ma vado a cagare veramente. Ah, in senso di non figurato, lei sì. Dice. Ah, beh, devo dire che è una grande battuta questa qua, un grande insulto. No, per carità, non è una battuta, dico sul serio. Ma lei è veramente, non è convinto di essere un idiota? Cioè, lei non è consapevole della sua idiozia? L'idiota non lo sa. Va bene, vedendo lei, no, assolutamente. Scusi, che fa di mestiere lei? Quello che dice. Che fa di mestiere lei, Massimo? Lei, tu? Faccio tutt'altro, cose molto più costruttive di quello che fa lei. Cioè, noi siamo dei coglioni fancazzisti che non facciamo nulla, anzi peggioriamo le sorti di questo paese. Sì. Invece no, tu che lei, cosa... Lei sta mettendo veramente fuoco, sta buttando benzina su un fuoco ardente. Ardente, e sempre non ardente. Si sta rendendo conto. No, ma per lei, carità. Ma lei vive in Italia... Sì, più o meno, sì. Vivo in e non si è ancora reso conto di che quello cosa? Che sta accadendo. No, che sta accadendo? Allora è proprio idiota. Ah, io sono idiota. Tu, veramente? Io sono idiota. Ma tu che no, cosa, problema, tu che cosa hai nel cervello? Scusami, che cosa hai nel cervello? Le la pigne, figurina cosa? Di Cucureddu. Ecco, appunto, solo quello puoi avere, cioè, la figurina sì, di Cucureddu. E tu che c'hai? Bah, io guarda, sono abbastanza limitato, per cui, ma non ho grandi pretese. Dimmi cosa. Sono io abbastanza ho detto limitato. Quello che ho, sì, ma la... molto... Perché io pecco spesso di modestia. Sì, di modestia. Non di immodestia. Sì, vabbè. Mentre lei fa sì. Delle trasmissioni sì, di veramente merda pura. Che fanno schifo. No, fanno no, anche un po' schifo. Spacciandola sì. Per questioni culturali. No, veramente questo non ho mai detto. Comunque, caro idiota, buona serata. Dario da Latina. Sì, ciao Lucia, adesso ti dico che sei un idiota anche io. Sì, ma dimmelo, dai, che mi esalto. L'Italia, dimmelo. Cambiamo sistema, perché prima avevo trovato un'altra cosa, adesso questo mi ha fatto proprio girare i coglioni, no? Dimmi. Cioè, se l'Italia si basa sulla tua trasmissione, cioè l'intelligenza del paese, no, sei no, tu. No, no, no, calma, Dario, che vuoi dire? Dimmi, dai. Cioè, io ti dico che noi andiamo a Mignotte come prima, no? In che dico, senso, scusa, andiamo a Mignotte? Tu vai a Mignotte. Vado a Mignotte, sì. E hai capito? Non ci vado a Mignotte perché sono felicemente sposato, però fuori Italia, in Svizzera, in Germania, in Austria, ci sono 30.000 bordelli e stanno aumentando. E allora? E questi che fanno? Questi nostri politici? No, fanno... loro vogliono punire la prostituzione, eliminare la prostituzione. Ecco, eliminare allora, la prostituzione. Ma allora, mica soltanto, diciamo, ma mica soltanto l'Italia, sai, stanno discutendo allora, di questo. Siamo come quello di prima, hai capito? Tu sei un idiota e conti tu. Conti, sei tu quello che rovini l'Italia. Vabbè, cioè, Giovanni Ferrara, vai. Giovanni Ferrara, vai. Giuseppe, pronto? Dimmi, caro, dimmi. Allora, io volevo intervenire sul tema della pipì nel lavandino. Sì, ma è un tema un po' superato questo, che abbiamo già accertato, sì, abbiamo sì, scoperto sì, un mondo che non c'era. Che ogni tanto la tiri fuori, no? Sì, ma abbiamo scoperto un mondo che non c'era e lo abbiamo tirato fuori, ma ripeto, allora, c'è un mondo nascosto, delle usanze nascoste abbiamo tirato fuori in questo caso. Sì, è esatto. Un pezzo di società che è venuto fuori, ma, su sì, tante cose. Io volevo darti una sfumatura che però nessuno ti ha detto in queste settimane. E qual settimane? È la sfumatura di il retroscena, Parenzo, di questa cosa qua, qual è? No, allora, sentiamo. Innanzitutto sono d'accordo, sono d'accordo con Parenzo che dice che i bagni delle donne sono decisamente più puliti. Beh, questo certo. Ma quello e è normale, collego. I bagni delle donne sono più puliti. Uno, i maschi di solito la fanno in piedi, le donne si mettono sedute, esatto, e sporcano di meno. Esatto. Vabbè, ragazzi, dai. Comunque, la pipì nel lavandino non nasce, almeno per la mia esperienza, come gesto in sé, ma nasce a volte proprio da un'esigenza. Cioè? E qual è l'esigenza? Che io, non so, sto viaggiando, vado in autogrill, apro il bagno sì, e mi trovo davanti ad una situazione incredibile, cioè io non posso, cioè, tu arrivare, dici la sporcizia, dici, esatto, ho capito, però in quel modo tu contribuisci dall'altra parte in e io mi fermo al primo strumento che mi trovo davanti, capito? Ma ho capito, ma gli altri che cosa ne pensano? Cioè, quando ti vedono fare la pipì nel lavandino di un autogrill, che cosa pensano? Scusami, che pazzo. No, beh, mica mi vedono. Ah, lo fai quando non c'è nessuno? Ma no, nell'autogrill no, dai, però tu sai che a volte ci sono dei bagni che hanno, ciao, ragazzi, nell'ambiente io privato. Io non l'ho mai fatto, ma non ne vedo nemmeno l'esigenza. Ciao Giovanni, ciao. Agrucia, sto facendo ascoltare la zanzara per la prima volta a mia moglie. Incazzatissima. La zanzara. Con noi Vittorio Feltri, buonasera. Come andiamo? Bene, come andiamo? Bene. Un trionfo. Trionfo assoluto, meno male. Allora, sta facendo molto discutere, bene, caro Parenzo, un articolo che ha scritto, sì, Vittorio sulla vicenda che era ancora, insomma, è riemersa negli ultimi giorni, quella, sì, della, sì, Cantone, dei famosi video porno diffusi, sì, su internet, dubbio, e del suicidio, dubbio, della ragazza. Allora, Feltri ha detto una cosa, che Facebook non ha alcuna colpa, e secondo me ha ragione su questo qua. Cioè, non è che molti attaccano Facebook dicendo che ha contribuito alla diffusione. Beh, anche è vero, il giudice ha detto. È vero che Facebook è un po' contraddittorio in questa cosa qua. Permette magari che alcuni video restino, mentre al contrario cancella alcune cose. Poi blocca delle pagine alle volte improvvisamente. Vabbè, scusami, ma quelli sono affari suoi, però. Cioè, sì. Non è certamente colpa di Facebook se uno fa dei video e poi li mette in circolazione. No, su questo non c'è dubbio. Però ha detto anche un'altra cosa, che questa signora, la Cantone, si è uccisa per fare la vittima. Vittorio, spiegaci un po' questa frase che fa molto discutere. No, non per fare la vittima, si è sentita vittima. Io non metto in dubbio la buona fede di questa ragazza, dico soltanto che qualcuno quel filmato l'avrà fatto e pare che l'abbia fatto lei. Sì, sì, e sì, lei stessa. D'altronde, chi avrebbe potuto filmare un rapporto intimo tra un ragazzo e una ragazza se non uno dei due? Sì. Questo, diciamo, è la base del ragionamento. Sì. Quindi, se è vero che il filmato l'ha fatto lei, se è vero che lei ha immesso poi il video in rete o mandato a dei suoi amici, l'ha mandato agli amici, eccetera, poi non si deve stupire se quel filmato, che lei volontariamente ha diffuso, sia pure con tiratura limitata, diremmo noi giornalisti, è chiaro che comunque è stato divulgato. A quel punto non sai dove va a finire. E in effetti è finito su Facebook e la cosa è diventata drammatica. Ma era ancora più drammatico il fatto che una ragazza che sta scopando pensi a filmare la propria performance e poi a mandarlo agli amici. Già questo, voglio dire, è fuori dall'ordinario. Dopodiché le conseguenze... poteva anche immaginarsele questa ragazza, forse, cioè, però, non se l'è immaginata, io non è che ce l'ho con lei, no, però tu hai commesso scritto... un'imprudenza che non doveva portarla al suicidio, ma solo a fare, diciamo così, un'operazione di autocoscienza, dire ho sbagliato a fare questa cosa, non lo farò mai più e adesso però mi subisco. Però tu hai collegato due cose, cioè il suo suicidio con il fatto di fare la vittima. Cioè, vabbè, è chiaro che quando tu ti suicidi, se il motivo è quello dovuto alla distribuzione, alla diffusione, sì, del filmato, sì, c'è una connessione fra i due episodi. E allora tu in quel momento ti senti vittima di Facebook o degli amici o non so di chi e ti uccidi, in questo senso vittima. Cioè tu non cioè, è che vittima dici, di una situazione dimenticandoti che quella situazione l'hai creata tu. Sembra quasi che tu abbia scritto, ma questa qua per fare un po' la vittima. Io non l'ho detto, però è una interpretazione libera tua che io non... No, la libera mia no, è quello che ho letto. No, io no, questo non lo volevo dire. dire, dico che una che si ammazza evidentemente ha dei motivi forti, probabilmente la vergogna, l'imbarazzo, beh, eccetera, sicuro, eccetera. Però, scusa, ma la colpa, però secondo... la situazione l'ha creata lei, e questo voglio dire, è un cortocircuito. Sì, però scusami. No, però scusami, se io mando una mail, vediamo una mail, lascia stare un filmato, anzi io mando un filmato di Parenzo che fa la pipì e lo manda a Cruciani, no? Sì, in un sì. momento di una bravata. No, ma anche di una a 3-4 persone, a Cruciani, a Feltri. No, a... ma... Sì, a Felti gliel'ho mandato qualche tempo fa, non l'ha pubblicato. Ma insomma, mettiamo che gli mandi un filmatino di questo tipo, di io che faccio la pipì. E a un certo punto me lo trovo pubblicato sul sito Libero o da qualche... Beh, io dico, scusami però, direttore, io ti avevo mandato una mia missiva privata. Non ho detto di pubblicare la mia missiva privata sul tuo bellissimo e simpatico giornale. Questo è il punto. Cioè, io infatti la sentenza dei magistrati, per questo la critico, perché è una follia. Se uno diffonde del materiale che io privatamente ti ho mandato, commette un illecito. Questo secondo me è il fatto. Poi tutto, cioè, tu stai dicendo la colpa non è della ragazza, ma uno può fare il filmato che vuole, però se io mando a una mia amichetta un filmato, scusa direttore, la mamma della Cantone che dice che adesso si vuole battere, privata, che si vuole posta. Battere per l'immagine della figlia, dice che probabilmente in quel filmato la figlia è drogata. Bah, insomma, adesso, questo non lo posso sapere. Se era drogato o meno, io non voglio entrare in certi dettagli che non posso conoscere, perché sono io che faccio le indagini. Però quello che dice Parenzo, diciamo così, non risponde alla situazione di cui stiamo parlando, perché questa ragazza, voglio dire, quando tu stai scopando con qualcuno, pensi a tutto meno che a farti un filmato. Ah, ma c'è, no? Gente che fa pure i filmati, però bisogna capire. Io non lo so, ma io faccio un ragionamento. Tu non l'hai mai fatto i filmati? Certo che qualcuno lo fa, tant'è che Tiziana probabilmente l'ha fatto lei. E poi tu questo filmato lo mandi in giro, sì, a 4, a 5, pare addirittura a 8, è sì, ovvio che ti può sfuggire di mano. Ma se non lo pensi sei imprudente, sei sciocco, sei sciocca, non so, dite voi. E quando poi lei ha visto che quel filmato, che ovviamente era piccante, è finito sul social, lei doveva immaginare che facendo quell'operazione finiva sui social, perché non è che l'ha mandato privatamente in una butta chiusa. Cioè tu dici chiusa. Che alla fine se ne è un po' cercata questa situazione. Ma sì, ha commesso un'imprudenza, voglio dire, tutti noi abbiamo fatto l'amore con una ragazza, ma a me perlomeno non è mai venuto in mente di farmi un film, anche perché mentre sto scopando non penso a pigiare un tasto di un telefonino. Devo dire la verità, io ce n'ho uno, ne avevo uno, ecco, Parenzo, no, recentemente. È paradossale, dopodiché no, lo ma mandi l'ho agli cancellato, amici. L'ho cancellato di recente perché ho detto bene, questo ma mai. Se poi tu lo mandi agli amici è ovvio quello... prima o poi finisce in rete. Quello non l'ho mandato, io ce n'avevo uno di qualche anno fa, di filmato, Parenzo, perché può succedere nella vita, no? E recentemente pure D'Agostino ha detto: io faccio tanti video, ma li tengo per me. Anch'io li ho sempre tenuti ma per me, non li ho diffusi. Non li entro diffusi. Nel merito, poi... non li ho diffusi mai. Importante è non diffonderli, però. Questo non c'è dubbio. No, però rimane il tema della posta privata. Si può chiamare video, si può chiamare cioè, dici, ma sei... è privata la posta su internet. Se Parenzo dice se li manda ad 8 amici, se lo manda ad 8 amici. Dal mio account g.cruciani chiocciola quel che è o d.parenzo chiocciola quel che è, e ti mando una mail dal mio account privato, si chiama posta o si chiama WhatsApp, email. No, però ti mando un messaggio privato. Se lo pubblico su Facebook puoi farci quello che ti pare. Se io pubblico Cruciani che fa la pipì e non si lava le mani, cosa peraltro che sanno tutti, e quindi non è una notizia neanche questa, che non si lava mai le mani, quindi attento direttore quando vai a fare le colazioni con lui e lui ti dà la mano, troverai. Sì, ma io mangio con le mie di mani, no? Con le ma sue. Quando lui ti abbraccia e ti dà la mano, ma troverai, no, sulla succede, tua mia. Mano elementi inorganici provenienti dal suo puzzolente corpo. Questo te lo dico, direttore, perché tu sei persona educata e ti lavi le mani. No, ma non è vero. Quindi, non dargli la mano. D'ora in poi, quando siete a colazione, dice: ah, lui ti abbraccia. Dice: guarda, preferisco non essere abbracciato. Gli puoi dire. Perché... Sì, ma questo con Tiziana, però, non ha molto a che fare. No, io ripeto, che fare, io non certo. ce l'ho con Tiziana. È che sta ragazza ha commesso un'imprudenza. Dopo, quando si è accorta degli effetti, tu dici quello che dice del la proprio madre... comportamento, si è vergognata. Probabilmente, parliamo di probabilità, perché sì, nessuno certo. ha la verità in tasca. Senti, alla fine, tu hai detto che potrei sì al referendum, sì. O no? Non ho capito. O sbaglio? Hai detto che potrei sì al referendum qualche giorno fa o sbaglio? Il referendum? Non ho capito niente. Il referendum? Hai detto che potrei sì alla fine? Ma no, intanto non ho ancora deciso se andare a votare o no, perché io ti dico la verità, a me di questo referendum, non so se si può dire in radio, ma come non no? Importa un cazzo. No, ma lo vuoi dire. Se, anche perché, vinca il sì, vinca il no, non cambierà assolutamente nulla. Ma se dovessi fare una cosa razionale, voterei sì. Ma perché voterei sì? Perché questo referendum riguarda la Costituzione, non Renzi. Se voglio abbattere Renzi, lo faccio in Parlamento, che è la sede idonea. Non al seggio del referendum, però non ha senso. Però Renzi stesso l'ha personalizzato questo referendum. Sì, ma a me non me ne frega niente di quello che ha fatto Renzi. Io non sono renziano, sì. Io sono uno che guarda cosa va a votare. Se io votando posso eliminare il titolo quinto che conferisce alle regioni un potere anche di spesa enorme che ci ha condotto, che ci ha fatto aggravare il debito pubblico, voto a favore. Senti, se si tratta di ridurre il Senato, io sono un po' perplesso perché l'avrei eliminato totalmente il Senato, sì, però è meglio fatto un Senato piccolo che un Senato che ha il potere di dare la fiducia al governo. Al governo. Senti, la cosa incomprensibile, la cosa incomprensibile è per esempio Berlusconi. Tu sai, Berlusconi è compagno di avventure in questa cosa del no al referendum, certo. I suoi principali odiatori. Cioè Berlusconi vota no, a parte la Lega e Grillo. Come Travaglio, eccetera. Vabbè, però ma vota no come Travaglio, come i centri sociali, cioè per esempio Brunetta sta con i centri sociali in questo caso, caro direttore, ti voglio ricordare. Sì, ma quello però succede anche sull'altra sponda, cioè c'è gente che vota sì e che diciamo certo. Così ha beh, una un storia meno, eh. Politica che dovrebbe condurli al no, ma insomma questo io non lo... piuttosto farei un altro ragionamento. Molti di quelli che adesso proclamano la loro adesione al no, in realtà hanno approvato queste riforme. Quello in Parlamento, sì. Per come esempio? Bersani, che è anche un mio amico che mi è simpatico, però ha votato per tre volte in Parlamento a favore delle riforme e adesso vota no. Cioè io questo non lo comprendo. Anche Berlusconi, Berlusconi. E questo è un ragionamento che è impossibile non fare. Allora vuol dire che lo scopo del referendum è un altro, cioè fare fuori Renzi, certo, non fare è fuori. Quello di approvare, certo. Tu dici meglio alla fine è meglio con Verdini che con Brunetta, quello sei in assoluto? Ma non me ne frega niente, io Verdini manco lo conosco, per cui non mi interessa questo. Io voto in base a, diciamo così, a un'opinione che mi formo osservando la realtà e leggendo i quesiti del referendum. Basta. Allora fermi tutti, poi restiamo altri due minuti con Feltri, fermi là, fermi. Non si può lavorare 8 ore pensando a quanto mi sta sul cazzo Parenzo. La Zanzara. Comunque la cosa di Radio Maria è incredibile, Parenzo. Cioè, questi qua hanno preso praticamente per 3 anni 2 milioni e 90 mila euro. Non per svolgere chiaramente servizio pubblico, ma per mero sostegno in base a una legge di 18 anni fa varata per sostenere le emittenti locali, che poi nel tempo in realtà si sono trasformate in un'altra cosa. Questo è il punto fondamentale. Allora, pare che oggi il Ministero dello Sviluppo Economico abbia comunicato che dall'anno prossimo, da quest'anno, questo contributo per fortuna verrà interrotto, non per colpa di delle frasi pronunciate, ma in realtà perché hanno deciso che è così. Ci stanno nel bilancio pubblico mille rivoli che sono da chiudere, mille rubinetti che sono da chiudere. Queste le cose serie, no ai referendum, secondo me. Allora, a proposito di spari, invece, il carabiniere che è stato condannato a 1 anno, che è incredibile, Vittorio, un carabiniere è stato condannato a 1 anno di galera per avere sparato a un albanese in fuga. Ma non è che gli ha sparato alle spalle così a freddo. Cioè, per fermare questo albanese in fuga, un rapinatore, eccetera, ha sparato un colpo. Il colpo è rimbalzato sull'asfalto, è finito in testa all'albanese, che è morto. 1 anno di galera per il carabiniere, 1 anno. Un altro, invece, sotto processo a Torino, leggo qua, mi hanno mandato pure questa notizia, un poliziotto che con un nomade in fuga ha sparato dei colpi e ha colpito alla schiena questo nomade. Capito? Lui dice, ho sparato, ma era l'unico modo per fermarli. Ora io dico... È possibile mai che delle persone, dei polizi... Potevi sparare in aria, no, adesso lui... non lo so, non è che vedi uno che scappa e gli spari, mica siamo ho nel, capito, nel ma Far è possibile West, mai che debbano... mica siamo da Trump lì in teo, mica siamo ma è siamo, possibile dai, mai che in Italia debbano finire sotto processo le forze dell'ordine, magari essere condannate perché sparano a dei rapinatori in fuga? Dai, su, Vittorio, che dici tu? Ma io penso che con queste condanne, con queste sentenze, si incentivino le forze dell'ordine a non fare più il loro dovere. Questo è... Beh, ma scusa, qui dice ho sparato finale, ma perché... era l'unico modo per fermarli, dice questo poliziotto lo so, a Torino. Lo immagino. Cioè, immagino, non è che uno spara in testa, non, un poliziotto italiano ha talmente una tale paura di finire sotto processo che non spara mai a uno mentre fugge alla spalle. Lo so, sono d'accordo con te. Io peraltro non vedo cosa ci sia di male a sparare a un delinquente. Certo, se spari un passante la cosa cambia, ma se spari a un delinquente evidentemente difendi la società, difendi un modo di vivere e difendi anche la legalità. Se poi invece noi ribaltiamo il senso comune e non vogliamo che si spari ai delinquenti, vabbè, lo si dica tranquillamente, i poliziotti li disarmiamo, li mandiamo a spasso in giro per Milano o per altre città e poi se i delinquenti fanno i delinquenti, pazienza. Cioè, allora, Parenzo, il punto fondamentale è il carabiniere di cui abbiamo parlato prima. Allora, c'è il caso, è stato proprio di oggi la condanna ad Ancona, no? Da quelle parti lì. C'è un proiettile che rimbalza per terra, cioè non è che gli ha sparato alle spalle a freddo perché era incazzato. Vabbè, il carabiniere, la ma che... questo ho letto prima. Comunque, è morta una persona. Beh, un ladro, è morta una persona, criminale, ma non è che sto dicendo un ladro, un criminale, figlio di puttana che deve morire. Ma succede che un poliziotto per fermare la fuga di una persona spari. Se questo proiettile va a finire nel cervello di questo qua, ma questo qua appartiene alle forze dell'ordine. Ho sì, capito. Ma non è che siccome è un ladro merita di ma morire, detto che perché merita altrimenti di morire. Ci però trasferiamo in Arabia Saudita ma tutti è quanti. È un incidente sul lavoro, perché se tu fai come incidente sul lavoro, se fai il delinquente, ma lo stato di ladro, diritto è un'altra e roba, capita ragazzi. Un incidente sul lavoro, pazienza, capita anche ai carpentieri, ai muratori, cadono dalle impalcature e muoiono. Tu fai il ladro, il minimo che ti può succedere è che ti arrivi una pallottola in testa sparata da un carabiniere. Non ci vedo niente di strano. Ma no, ma è normale. Se tu scappi dopo una rapina, c'è un carabiniere che ti insegue per fermarti, spara e tu muori. Non mi sembra, cioè, siamo nella normalità più assoluta. Poi in Italia succede. In Italia invece, se non vuoi morire, la normalità è catturare i ladri, non catturare i cadaveri. Questo è il punto. Ho capito, però ci sta. Cioè, come li catturi i ladri? Gli porgi un mazzo di fiori per catturare. Ma no, li insegui, li fermi, li minacci, fai come fa la polizia. Infatti, dopodiché quelli se ne vanno e tu, il delinquente non lo prendi mai. Se quello scappa, gli spari nelle gambe, gli spari nella schiena. Gli spari nelle gambe, appunto, oppure in aria. Spesso i nostri poliziotti sono bravissimi. Se spari in aria, prendi un uccello al massimo, non è che prendi. Vabbè, quello però, sai. Vabbè, ma allora ognuno faccia quello che vuole, insomma. Non, però ma c'è un codice, non è che è stato condannato. Tutelino. No, sì, ma dico, se, c'è un codice, scusate, ragazzi se, miei. Se nemmeno i poliziotti, cioè il paradosso qui è che nel caso dell'albanese... Nessuno ha detto che il poliziotto non può sparare, nessuno no, ma lo ho ha capito, detto. Ma se uno però... Questo giudice avrà interpretato la legge dicendo che c'è stato un eccesso nel rapporto vabbè, tra la resta... Per forza. Questo l'abbiamo capito, certo che è così, altrimenti non ci sarebbe stato processo. Quello che io contesto, e anche Vittorio contesta, è che purtroppo ci sia nei confronti di carabinieri e poliziotti in questo caso dove... Cioè non ci deve essere neanche il processo. No, ma sono dei poliziotti, sparano. Ma che devono fare se no per fermare uno? Che devono lasciare andare? Ma non è che un poliziotto può sparare così ad minchiam come gli pare. Ma chi ha detto ma ad minchiam? Ma no, non è impazzito. Anche degli Stati Uniti vi ha sparato ad minchiam, ma se no non l'avrebbe preso. Ha sparato bene, non a minchiam. Ma io non lo so. Ma noi facciamo sempre il tifo per i delinquenti, ma facciamo mai il tifo per i carabinieri. Ma quale tifo per i delinquenti? Io sto con i carabinieri anche quando sparano nei momenti di necessità. Se tu non vuoi essere sparato, caro ragazzo, ti fermi e non ti fai inseguire. Ti fermi e così nessuno ti spara. Ciao Vittorio, a presto, ciao. Ciao. Ciao. Caro Parenzo, la grande inchiesta che facemmo tempo fa, che era dedicata al cambio dei cognomi, ti ricordi? Sì, come no, certo. Beh, tra i cognomi c'era Finocchio. Mm-hmm. Tu lo sai che uno che si chiama Finocchio a Bari ha ottenuto dal prefetto di Bari il cambio di cognome, si chiama Fino adesso. Vabbè, Fino, cioè uno che si chiama Finocchio a Bari ha ritenuto opportuno, non so se per sé, per i figli, per i parenti, non so per quale motivo è. Noi l'abbiamo presa come scherzo tempo fa, Ti ricordi? La prendemmo cioè, come no, scherzo. Come no, certo. Invece uno ha fatto davvero il cambio di cognome, Finocchio, ritenendolo una cosa che non si deve... Così, ritenendosi a disagio magari. Dice, come ti chiami? Finocchio. La gente a ridere, eccetera. Noi lo avevamo previsto. Però non tutti erano d'accordo. Pronto? Sì, Finocchio? Sì, sì, chiamo dal comune. La chiamo perché il comune ritiene opportuno lei cambi cognome. Per quale motivo? Oramai il termine Finocchio si usa soltanto nell'accezione negativa, quindi frocio. Il suo cognome sta a significare frocio, dovrebbe ma cambiarlo. Ma che cazzo vuol dire cambiare? Il mio cognome. Il cognome Finocchio getta discredito sull'immagine del comune. Guardi, per me quella è tutta una grande stronzata. Vabbè, il mio cognome non si tocca. Sì, ma vabbè. Ma che cazzo, in comune avete qualche altra cosa di meglio da fare che rompere i coglioni? No, adesso non offendiamo, mi perdoni. Lei dovrebbe cambiare. Il suo cognome getta discredito, vergogna sul nostro comune. Ma tu, il comune, venga a stare gli rompo il coglione. Come si permette? Come si permette? Io sto lavorando. Di coglioni, stronzo, tu hai tutti ma... il comune, il sindaco tuo, vaffanculo. Coglione. Pronto, Valericio? Sì, buonasera, Finocchio? Sì, lei chi è? Io sono Russo, la chiamo dal comune. Ormai, purtroppo, dico, il cognome Finocchio viene interpretato in accezione negativa, cioè Finocchio, frocio. Frocio? Sì, dovrebbe cambiare cognome. Lei si sente una persona di questa, mi deve scusare. Le sto dicendo, e il comune offre anche 1.000 euro se lei cambia cognome. Mi dà 1.000 euro? E sì. Che fare di 1.000 euro? Le 1.000 euro che il comune mi vuole dare, mi faccio una soffetta di naso, e... non rompo i coglioni alla gente che stanno lavorando. Beh, sì? Non si permetta di dirmi che rompo i coglioni, no, però. No, sto dicendo veramente. Eh? Abbastanza che una persona che lei non sa ragionare, ha capito? Lo consumo a lei, perché lei che mi dice a me devo cambiare il mio cognome, completamente non esiste. E lei a me mi paga anche il risarcimento di parole, ha capito? Il Finocchio e lei e il risarcimento devo pagarglielo non io? Non mi interessano i 1.000 euro. Scusi, bene? Ma lei non si vergogna di portare un cognome che vuol dire frocio? Non mi vergogno completamente a portare il cognome, va bene? Ma questi non è che vogliono cambiare cognome in realtà, eh. Cioè, questo di Bari, tra l'altro il vicepresidente del Consiglio Comunale di Bari si chiama pure quello Finocchio e ha detto che è una decisione sbagliata. Comunque ragazzi, vabbè, un signore che si chiama Finocchio a Bari ha ottenuto di cambiare il proprio cognome e adesso si chiama Fino. Allora, dove andiamo? Giuseppe Lecco, vai. Pronto? Giuseppe, dimmi. Allora, io oggi stavo mangiando, ho visto una scena che mi ha fatto ritorcere proprio... come devo dire, lo stomaco. Che è successo? Di sto rumeno qua che andava in giro, seguiva le vecchiette fino all'ascensore, alla porta di casa. Sì. Le prendeva a cazzotti e le derubava. Cioè, ma dov'è successo, scusa? Di... è nelle cronache? Guarda. Sì, sì, l'ho visto, se non sbaglio, su Rete 4, penso. Mm. Rete 4, Rete 3, a mezzogiorno dove fanno le telegiornate. Mm. Allora? Niente. Ma non ho capito, l'hai visto in televisione? Allora, non è che l'hai visto tu? Come? Non è che l'hai visto tu, l'hai visto in televisione? No, l'ho visto in televisione. Ah, sì. Che ne so, ho visto una scena. Ecco, quello che volevo dire io è questo, che spero che nel carcere che vada a finire ci sia qualcuno che ha una mamma di quell'età, una sorella, una qualsiasi cosa, lo spezzino proprio a queste persone qua, perché vengono qua... in Italia io non sono razzista, ho anche amici rumeni, non mi interessa. Però scusami, però quelle persone lì devono essere proprio come devo dire, li devono mettere in una condizione che non devono far più del male. Cioè, bisogna che vadano in carcere, vadano in carcere lì massacrati di botte, dici tu. Guarda, io ti dico, se una cosa del genere succedeva a mia madre, sì. Io mi facevo arrestare per andare dentro lì a prenderlo io. Capito? Allora c'è uno che mi scrive, l'ho visto, aspetta un attimo, c'è uno che mi scrive, l'ho visto pure io, Rai 2 al TG, una roba da ucciderlo. Che vuol dire una roba da ucciderlo? Ragazzi, però siamo seri, cioè seri, insomma, ragioniamo un attimo. Cioè, davvero Giuseppe, tu prevedi che questo, cioè tu immagini che questo romeno venga, che picchia le anziane per derubarle, una cosa orrenda, per carità, vada in carcere e venga spezzato in due, come hai detto, da una persona là dentro? Certo, ma anche da più persone, amico mio, però, per capire ho capito. Devono venire in Italia. Io, guarda, ti dico una cosa, da quello che so io, una volta il ladro italiano, per dire, che fa? Curava una casa, gentiluomo, quando non c'era fa? Nessuno, entrava dentro, rubava. e buone. Sì, questi qua entrano, ma che di, sì. Ma guardi che i criminali italiani, il criminale è criminale, non è che ha una peculiarità, cioè, secondo te il ladro napoletano, veneto. Ma guarda, io no, dico che questi qua dell'est siano più violenti, non c'è dubbio, ah, perché il mostro del Circeo, perché i mostri quelli del Circeo erano dei liberali. No, i ladri di appartamento, sto dicendo. Nel tempo si è scatenata una violenza dei ladri di appartamento che prima non c'era, su questo non c'è dubbio. Ma questo non voglio dire una violenza. Ma è così, e questo lo dicono tutti, è così. Cioè, i ladri di appartamento di un tempo non erano come quelli di adesso. Ma i ladri sono dei farabutti, dei ladri, a prescindere, che vuol dire? Non si può neanche aggettivare, sono dei ladri, punto. Ma non è che c'è il ladro della Slovenia, poi c'è il ladro siciliano, poi c'è il ladro ungherese, il ladro polacco. Ragazzi, le bande dell'est dei ladri nelle ville sono molto più feroci, molto più violente, ma non ne faccio una questione etica, certo, è un dato di fatto. Ma sono dei banditi, dei maledetti, chiamateli come volete. Comunque questo qua seguiva le vecchiette da sole, le massacrava di botte senza senso, così è, no? O sbaglio? No, senza senso, il senso l'aveva, faceva finta di parlargli, di chiedergli informazione o di chiedere qualche soldo, poi è un maledetto, un assassino, ma è un criminale, okay. Ovvio. Fermi ovvio. Tutti, fermi. La zanzara è una punizione di... La zanzara. Ciao Zanzara, io vivo da 2 anni a Shanghai e da 1 anno e mezzo ho una fidanzata cinese e ti dico che con lei pratico regolarmente il sesso anale, quindi non è vero che tutte le cinesi non lo praticano, alcune con pazienza, se si applicano, lo praticano. Saluti, zai jian! Parenzo e Cruciani, attenzione, nei Paesi Bassi i disabili possono, e dico possono se vogliono, percepire soldi per andare con le prostitute. È legale. Parenzo, anzi, questo è per Parenzo. Parenzo, sei il solito asino. 10.000 euro si danno a chi fa cose peggiori, non a chi tromba in macchina. Pirla. E silenzio. Sono da solo in mezzo a un bosco e del traffico non me ne frega un cazzo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Allora, continuare a mandarmi notizie di Parenzo, di accoppamenti, di ladri. Uno da Padova mi scrive: in stazione, l'uomo abbracciato dalla giovane rapida a sfilargli la catenina. Nomade deruba disabile, patteggia ed è già libera. Altri mi scrivono: la veemenza con cui si accaniva sulle nonnine, con quel romeno, quel rom, eccetera, non merita perdono. Non merita perdono. È giusto, come diceva l'ascoltatore, secondo quest'altro, che questo qua venga picchiato selvaggiamente e spezzato in due in galera. Questo dicono. Allora, c'è un tizio che abbiamo già sentito una volta, tempo fa, Parenzo, che si chiama Gianfranco Butindaro. Uno che dice di essere ministro del Vangelo. E sostiene che tutti gli eventi tragici che avvengono qui sulla terra, in Italia, ma non solo in Italia, cioè nubifragi, terremoti, eccetera, eccetera, sono causati da Dio, cioè è Dio che li manda, capito? Cioè tutte le cose brutte che capitano all'uomo sono opera di Dio. Si autoproclama, direi, ministro del Vangelo. Si chiama Gianfranco Butindaro. Ha una serie di seguaci. Io lo sentirei per capire. È pure i seguaci. Beh, sì. Pronto? Sì, sto parlando con il ministro del Vangelo? Giacinto Butindaro, sì, chi parla? Sono Cruciani, Radio 24, ciao. Ah, salve Cruciani, dimmi. Come stai, Butindaro? Sto bene, grazie a Dio. Ma tu, non ho capito, io leggo qua sempre, scrivi sempre queste cose, sono ministro del Vangelo, vivo e servo l'Iddio vivente, vero a Roma. Certo. Senti una cosa, no, volevo chiederti una cosa, ma anche tu pensi, credo che tu la pensi così, che i terremoti sono un qualcosa voluto da Dio, una specie di punizione per noi, spiegami. Allora, la parola di Dio, io faccio riferimento a quello che è la parola di Dio, sempre, cioè sempre. La Bibbia. Sì. Allora, la parola di Dio dice che per l'ira di Dio trema la terra, è scritto nel libro del profeta Geremia, sì. È parola di Dio, perché ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi essendo parola di Dio, io credo a Dio, quindi per l'ira di Dio trema la terra significa che quando arriva un terremoto, quella è una manifestazione sì. dell'ira di Dio. Di Dio. Beh, scusami, per cui i fenomeni naturali, i terremoti, cioè tutte cazzate. Allora, è chiaro che i sismologi, quelli che studiano i terremoti, spiegano il terremoto in una maniera che in un'altra, però chiaramente... È tutto sbagliato, non abbiamo capito niente noi. Beh, la Bibbia dice questo, quindi cioè non importa quello che dicono i sismologi, la Bibbia dice che per l'ira di Dio trema la terra e quindi noi crediamo che Dio fa tremare la terra come manda anche gli alluvioni, come anche manda i fulmini contro i suoi avversari, sono cose scritte nella parola di Dio. Dio non è cambiato, allora Cruciani, questo è il discorso. I fulmini contro chi li manda? Contro i suoi avversari, guarda che questo è mi pare che tu sia ebreo, no? Di nascita, sì. Nascita di convinzione. No, ma quello che volevo dire, cioè, sì. Parenzo, ma le scritture profetiche, mi riferisco in questo caso a Giobbe, al libro di Giobbe. Nel canone ebraico, no? È nel canone ebraico delle scritture, la Bibbia ebraica contiene anche il libro di Giobbe. Allora mi fa Cioè, mi sorprende che uno come Parenzo non crede nemmeno alle scritture agli oracoli che Dio ha dato agli ebrei. Scusami, in questo caso, abbi pazienza, a parte questa cosa dei fulmini, un fulmine che colpisce una macchina, quello era nemico di Dio dentro la macchina, scusi. Mio zio è successo, era religiosissimo, l'ha colpito un fulmine, Ma come la spieghiamo sta cosa? No, aspetta, sì, ministro del Vangelo, aspetta un attimo, allora. Dimmi. Qui c'è una cosa molto semplice, mio zio, ultra cattolico, molto cattolico, credente, non ha mai trombato con nessun altro se non con la moglie, uno che non ha mai fatto nessun peccato, uno che andava a messa 4 volte al giorno, eccetera. Ma tu non puoi mica conoscere la vita, non puoi mica conoscere tutta la vita di una persona, l'ha colpito una volta un fulmine, Parenzo, ti giuro, l'ha colpito un fulmine. Ma è morto. No, è rimasto ferito, però ha avuto un casino. Ha commesso qualche peccato. Diciamo. Ma sicuramente, ma perché vedi? La popolazione di Norcia, che cosa ha fatto di male, secondo te? Ma non è solo Norcia, i fulmini, i terremoti, non è che colpiscono solo Norcia. Vabbè, l'Italia che ha fatto? Ha fatto le unioni civili? La legislazione a favore delle unioni civili è un'abominazione nel cospetto di Dio, ma perché? Ma l'omosessualità è un abominio nel cospetto di Dio. Non avrai relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna. È Dio, il creatore di tutte le cose. Allora, se tu infrangi la legge di Dio, è chiaro, ti metti contro Dio. Ti faccio un esempio. Se tu ti metti contro la legge dello Stato italiano, se tu ti metti contro la Costituzione, ti metti contro lo Stato italiano. Allora, se tu ti metti contro la legge di Dio, ti metti contro Dio. E quindi Dio ti castiga. Perché questi che fanno tali cose sono degni di morte. Il giudizio di Dio è questo, capisci? Cioè questo, io parlo da credente in Cristo Gesù, il figlio di Dio. Per me tu parli, ma c'è qualcosa nel cervello che non funziona tanto bene, amico. Allora è chiaro, ministro del Vangelo, dai, se tu pensi che il fulmine che ha colpito mio zio, che è uno religiosissimo, sia il frutto del castigo di Dio, questo era uno no, che... è un castigo, te lo assicuro, devi badare a te stesso, a come vivi, a come parli, perché ti attiri l'ira di Dio. Ma Cruciani, ma tu non te ne rendi conto, perché io capisco che tu sei cieco, ma io ti avverto, sai, già la seconda volta che ti avverto. Scusa, io mi tocco un attimo, scusami. Ma tu vuoi fare quello che vuoi, ma quello che devi fare, ma non è ascolta, Cruciani, non è toccati, ti devi ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo, per essere riconciliato con Dio, altrimenti l'ira di Dio continua a rimanere su di te. Fammi una preghiera, dai, ministro del Vangelo. Ma non è che devo, ascolta, io ti devo esortare. Segnalo semplicemente una prima anomalia della nostra conversazione. Sì. E la prima anomalia, a parte tutto il resto che segnalo, è il fatto che c'è un signore che si proclama ministro di Dio. Dico bene? Del Vangelo. Dico bene. Del Vangelo, peggio, certo, ministro di Dio, certo. No, certo nulla. Ministro del Vangelo. Ecco. Calma. Già come il certo, fatto che c'è? Lei si proclami ministro del Vangelo, già questo io mi permetterei di allertare l'unità sociosanitaria più vicina a lei, sì, per farla sottoporre a un cosiddetto TSO, il cui acronimo vuol dire trattamento sanitario obbligatorio, solo per il fatto che lei si è autoproclamato ministro del Vangelo. Non entro neanche nel merito di tutto il resto, perché se già le fondamenta sono sbagliate. Ma non mi conosci, ma io sono stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo, a predicare lei sta la parola di aggravando. Dio. Ecco, ma allora adesso è inutile che... come fu chiamato l'Apostolo Paolo, come fu chiamato l'Apostolo Pietro, anche sì, lui erano ministri dell'Evangelo. Mica si erano autoproclamati, ma mi sarebbe inguardato io da autoproclamarmi ministro dell'Evangelo. Aspetta, scusa, ma chi ti ha, come dire, chi è che ti ha chiamato a fare questa cosa, a essere ministro del Vangelo? Dio, quando ci hai parlato con Dio? Dio, allora Dio mi chiamò tramite una rivelazione quando ero ancora un giovinetto, pubblicamente in una comunità evangelica mi chiamò, mi appartò per l'Evangelo e fece sì che quella ti mise da parte un attimo per l'Evangelo, ti mise da parte. Sì. Allora questa è un'espressione biblica, è un'espressione biblica. Ma Dio rivelò tramite Dio una visione. Una visione. Una visione. Sì, io parlo con Dio perché lo prego e Dio chiaramente anche ha parlato a me. Scusi un attimo, c'è un elemento fondamentale. Quello che lei ha detto succede in tutto il mondo, ogni giorno. Cioè il mondo dovrebbe scomparire. Hai detto, cioè, allora, no, amico mio, ho capito dove vuoi arrivare, ho capito dove vuoi arrivare. Perché allora Dio non manda i terremoti in ogni luogo della terra? Allora, il discorso è che Dio si riserva di punire gli uomini nella maniera che lo stabilisce lui. Non è che lui ha solo il terremoto come mezzo per punire gli uomini. I giudizi di Dio sono svariati. Te l'ho detto, terremoti, fulmini, alluvioni, malattie. E Dio fa morire, all'improvviso le persone. Mamma mia. Sì, è così. Ma la Bibbia ne parla. Ma la Bibbia ne parla di queste cose. Dio ha fatto morire tanti. Nella Bibbia ci sono le storie. Ananias e Safira. E Dio ha fatto morire Onan. Ma veramente Dio fa vivere, fa nascere, fa anche morire. Guardate voi stessi. Va bene. Che avete a che fare con un Dio vivente, grande e tremendo. Calma, ministro, ma che è? Ma no, ma calma, ascolta. Ma ti io saluto, sono ti saluta, ministro, ti devo salutare, Grazie. Va bene, ciao, ti saluto. Ciao, Mini, ciao. Mamma mia, Parenzo, ci mancava. Ma guarda che c'è gente veramente spostata, c'è gente spostata. Oh, meno male che lo ammetti, sì, c'è gente certo, veramente spostata. Questo qua si autoproclama ministro del Vangelo. Cioè, sì, vabbè, ma uno questo va oltre quell'altro, cioè questo il faraone nero lì. Ma no, ma che c'entra il faraone, dai? Adesso non mi insultare il faraone, dai. Stesso livello, quell'altro. Fermi lì. Mia moglie ascolta la Zanzara ed è concorde con me nel dire che Cruciani è uno stronzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Allora, è da qualche giorno, David, che mi sfracassano le balle su internet, nei messaggi, eccetera, proponendomi questa canzone. Questa canzone ispirata praticamente a un clandestino. È un clandestino che canterebbe, no? Sentila, non pago affitto, vengo qua, prendo i tuoi soldi. Boh. Ehi. Non pago affitto. Non pago affitto. Non paghiamo l'affitto. Dai cazzo, siamo negri noi. Yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Non pago affitto. Yeah, io non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Tutti i miei amici sono venuti con la barca. Swag barca. Appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe. Yeah, io non faccio praio, non faccio praio, io non faccio praio, non faccio praio, yeah, io non faccio praio. Che sarebbe operaio, non faccio praio, non faccio praio, non faccio praio. Non mi sporco le mani, perché sono già nero. Sono adesso non mi dire che questa roba, questa roba qui è, ma dai, fa su. Schifo, puro razzismo. Ma che è puro razzismo? Ma dai, su, ma prendila. Fa mettiti proprio schifo. No, a parte che non mi fa neanche ridere, cioè, parte, se è una parte battuta, che è cantata da due neri. Cioè. Non fa ridere, ma è, fa schifo. Matteo Renzio ha detto che è casa nostra. Quindi tutti i miei amici, tutti i miei amici, votiamo tutti. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Ancona, Stefano, Stefano d'Ancona. Anzi, Mirella da Genova prima, Mirella da Genova, dai. Dai, dimmi, dimmi. No, perché siccome mi fracassano le balle con queste cose, adesso le metto, anche se mi fanno schifo. Pure a me non mi piace molto, ma non per i motivi di Parenzo, eh. Non mi piace come, come canzone, così. Cioè, mi strappo, non dico mi strappo un mezzo sorriso e basta, per due secondi. Mirella, dimmi, dai. Allora, faccio un appello al popolo della Zanzara, posso? Sì. Sì, sì, prego. Sentiamo. Allora, io sono un'educatrice. Sei un'educatrice? Che vuol dire un'educatrice? Che vuol dire un'educatrice? Allora, sono educatrice, sono quelle figure che, non so, negli asili nido o con le persone anziane. Un'educatrice, va bene, allora? Si chiamano educatrice. E sono due anni che non lavoro. A noi che cazzo ce ne frega, scusa? No, aspetta, a te no, non te ne frega un cazzo. No, ma a nessuno frega niente, sono problemi tuoi, per carità, va benissimo, aspetta, però a me non ce ne può fregare. Aspetta, e lasciami finire. Dimmi. Ci ho messo tanto per quanti tornare. Anni hai, scusami, Mirella? Allora, io ho 59 anni. 59, allora? Ed è, io mi sposterei, io rivolgo questo appello al grande popolo della Zanzara. Ti sposterei, io a fare cosa? Ti sposterei a fare... fuori dalla Liguria se qualcuno mi dà una mano, ma scusa, per ma... un lavoro. Ecco, vediamo se qualcuno chiama, magari. Però non è che si può aiutare, prendere, volentieri. Non è che si può prendere questa trasmissione come una specie di ufficio, ufficio collocamento. Mirella, ma abbi pazienza. Hai detto tu, Cruciani, che hai detto fate vostra anche questa trasmissione. Io non sapevo, cioè, non no, è che va bene, perché ma che sai fare? Ma che sai fare, scusa? Scusa, te l'ho detto, sono un'educatrice. Beh, ma no? Ho capito, l'educatrice lavora di solito col pubblico, cioè cosa puoi ma fare? No, lavorano con i bambini piccoli, negli asili nido, con le persone anziane. Beh, ma ho capito, ma cosa vorresti da noi? Non ho capito. Mirella, 59 anni, lavoro, educatrice, si offre che cosa? Ad anziani? Ma ho capito, ma per fare per cosa? Per gli anziani e per i bambini piccoli come tata. Cioè la babysitter, tata, vuoi fare? La ma babysitter. Sì, cioè, voglio, Cruciani, io è due anni che non lavoro, sono allo stremo delle fatto cose. Bene, fatto bene a chiamare, stai con le pezze a tutti al culo quelli. In pratica, stai con le pezze al culo in pratica. E Cruciani, vabbè, sì, ma detto papale, io non ho nessuno che mi mantiene, Certo. Vabbè, ho capito, come campi durante il giorno, spiegami, come campo, stai dissipando tutti i tuoi risparmi, che stai facendo? Sì, sto vivendo con i risparmi di una vita terribile, povera, vabbè, ha fatto bene a chiamare, speriamo, Cruciani, che qualcuno ma cosa vuol dire vabbè? Ho capito, ma che sarà mai, adesso troverai qualche cosa, ti chiamerà qualche... Senti, lo posso lasciare il mio numero in diretta? No, ma amica mia, però se tu chiami il tuo numero in diretta, se tu lasci il tuo numero in diretta, non chiami. Se tu lasci il tuo numero in diretta, ti chiamano dei poco di buono. Cioè, ma non che è me ne frega, fai questi poco di buono. Magari c'è gente che vuole prestazioni sessuali, che ne sai? Cioè, ma 59 anni, io mi mantengo benissimo, ma 59 anni, cioè voglio dire. Ma poi mica sono tutti dei maiali, come pensa Cruciani. No, c'è gente ma io per non bene, ho detto questo. Anche. Ho detto, vabbè, lascia il tuo numero in diretta, vedrai che non ti passa più, però, te lo dico, Cioè, poi vieni massacrata. Non le conviene, secondo comunque, me. Comunque, dimmi, Mirella. Ma dimmi. Se mai cambierà il numero, dimmi. Allora, il mio numero è. Veramente grande popolo della Zanzara. Va bene, vediamo. Dai, dimmi, Mirella, dimmi. Allora, 345 345, diciamo, sei antica. 94 36 132. Sarà il suo davvero, non è che ha dato il numero di qualcun altro. No, come Parenzo. Guarda, se hai dato il numero di qualche amico tuo, eccetera, poi Cruciani, passi qua i tuoi. E noi non ci assumiamo nessuna responsabilità. Allora, ascolta. Allora, se volete offrire un lavoro a Mirella, che credo che sappia fare l'educatrice, cioè, che ne so. Comunque, come ci credi? Ma perché metti in dubbio queste cose? Ma non qua? Lo so, io se fare l'educatrice, magari non è vero, oppure, che ne so. Cioè, ma se Se c'ho tanto di curriculum e tanto vabbè, di 3, 4, 5. Non so a chi interessa l'educatrice, interessava più la prostituta, però tu vuoi fare dai, una cosa. Ma perché, poveretta? Ma è fissato. No, interessa però di più. Se uno dice voglio fare la prostituta del numero di telefono, sarà più interessante. Uno dice voglio fare l'educatrice, no? È chiaro che avrebbe più successo in quel caso. Dico solo un dato di fatto. Comunque, vuole fare l'educatrice, giustamente, ma, il suo mestiere. Ma scusami, ma ci saranno delle chi, mamme? Chi cerchi? Delle mamme? Ma figura delle mamme, qui non chiamano le mamme. Comunque, cerchi. Ma della vabbè, ho capito, le mamme. Allora, guarda, se non è vero questa storia qua, vengo a cercarti col forcone, ti giuro, ti vengo a cercare cosa col forcone. Stai dicendo? Allora, vieni a Genova. Vieni no, a Genova, per carità, 345, non ho tempo, 345, allora. 94, 36, cerca lavoro da educatrice, vabbè, babysitter, educatrice, pulisce sì, il culo dei vecchi. Anche fuori tutto Genova, anche fuori Genova. Sei disposta a pulire il culo dei vecchi? Assolutamente sì, l'ho benissimo anche fatto. Ottimo, scusami, 345, 94, 36, 132, giusto? 345 94 36 1132. Ragazzi, non chiamate per insultare, sennò poi mi arrabbio sul serio. Offrite un lavoro, che ne so, avete sentito? No, se avete... no, grande popolo della zanzara. Vabbè, ho capito, adesso non mi pigliare per il culo. No, appunto, non chiamate per insultare oppure dire altre cose brutte. Ma insultare di cosa? Scusa, io cerco lavoro, cosa normale mi devono insultare? In giro c'è tanta gente strana, Ma non lo so, a 59 anni vuoi che non sappia che in giro c'è tanta gente appunto strana? C'è gente che magari, no, malati di mente, spostati, perversi. Insomma, il grande popolo della zanzara è anche questo, amica mia. Ciao, ciao, Mirella, ma io ciao vi abbraccio. Va bene, ciao tesoro, ciao, ciao, ciao. Le Marchi di nuovo da Costanzo, caro Parenzo. Oh, le Marchi mia di nuovo da Costanzo. Mamma mia, mamma mia. Senti, mamma a un certo punto lì dico, la nobile prima confessa di avere una malattia, come la Marchesina. Come la Marchesina, la nobile. Ho la stessa malattia della Marchesina. Questo mi dispiace. Anna Marche mi diceva che non lo sapevo di una malattia che ha e che sta combattendo da un po' di anni. Da 22 anni. Circa 22-23 anni. Che è la stessa malattia che c'aveva la povera Anna Marchesini. Sì. Comunque è una malattia Marchesini. Si capisce un cazzo quello che fai. È la stessa malattia Marchesini. Non si capisce più un cazzo. Eppure è ancora successo, incredibile. Cioè, è la stessa malattia Marchesini. Beh, si capisce. Non è buona si capisce sale, nulla. Devi stare là con la cosa attaccato al televisore così. Cioè, se devi alzare il volume a 70 sul Samsung, no? Che c'ho io. A 70, perché se no sento una mazza. 70, sono nulla in genere. Figuriamoci su una cosa di questo tipo. A un certo punto discutono Costanzo e la nobile sulle famose, no? Sul sale, quello che vendevano le macchine. Senti, senti. E non pensiamo nemmeno che lei vendeva delle cose che facevano bene. Neanche male? Ecco. Vedi no come sono tutti bravi, eh? Vedi la gente com'è. La gente vuole, dai a quel cane, dai a quel no, cane, dai no, a quel ma cane. No, ma dai, la gente fatto sa. Ma sì, scusate, ma ragazzi, avanti, abbiamo no, pagato, no, siamo le uniche in Italia che hanno pagato. Ma no. Sono le uniche che hanno pagato in Italia, non credo. Ecco, dai, su questo diciamo che... No, è anche vero che allora tante persone che non avevano soldi hanno pagato a voi per delle alghe inesistenti. È vero. Quindi mettiamo le cose sul stesso piano, dai. Le altre sono esistenti. Sì, se no... Poi convince la Marchi a dire d'accordo! Lei perché quando finiva un editto diceva d'accordo? Com'era? Fatelo voi, d'accordo! Eccola là! Sì, poi sì, a un certo sì, punto abbastanza carica. Senti che la Marchi racconta: non potevo fare benzina da sola quando ero ai servizi sociali perché mi controllavano, perché magari temevano qualche cosa. Senti, senti. Ma io peggio di Valanzasca, eh? La benzina non la potevo fare io perché potevo intralazzare col benzinaio e magari provare di far qualche rapina in banca, che poi in banca perché? Che non hanno più una lira manco loro. No. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Avevano paura che si fregasse la pompa più che altro, ragazzi, no? Non vendo la benzina. La pompa! Vendo la pompa! Ma no, a un certo punto la caricava lì da nascimento, la smontava, a un certo punto vedono la carica lì sul portabagagli tutta la pompa di benzina, scusi, c'è la macchina, dove va? D'accordo! ve la ridò per 70.000 euro. Cioè, cazzo, mi ha svuotato la bomba di benzina, però è venuta qui a fare benzina, me la svuota e me la rivende per 70.000. Non lasci niente lì che smontata. Dai, vai, gente incredibile quella lì, eh. Gente pericolosissima, pericolosissima, dai, pericolosissima. Vabbè, ragazzi, Alessandro, Roma, dai. Pronto, Luciano? Dimmi, dimmi, Alessandro, dimmi. Allora, la prima dei cognomi, c'è un amico mio, no, che si chiamava Finocchio, ha cambiato il cognome in finese, se poi lo può pure chiamare, cioè, perché si chiamava Modesto di nome e Finocchio di cognome, e lo prendevano per cioè, non ho capito, si chiamava tutti. Modesto di nome? Modesto di nome e Finocchio, no, di cognome. Non è possibile, dai, Modesto, Modesto Finocchio. Te lo dai. Giuro su Dio, te lo giuro su Dio, il nonno si chiamava Modesto, lui, e lui si chiama Marco, si chiama. Si chiama Marco e Finocchio comunque, e l'ha cambiato alla Marco, fine. L'ha cambiato in Finesi, sull'elenco lo trovi. Finessi o Finesi? Però lo continuano a chiamare tutti Finocchio. Vabbè, quindi non quello... gli servì un cazzo cambia cognome, povero Role. Cioè, lui si chiama Marco Finocchio e adesso si chiama Marco Finesi? Marco Finesi, ma tutti comunque lo chiamano, lo continuano a chiamare Finocchio. No, perché è peggio, le persone che lo conoscono lo sanno e lo chiamano ancora Finocchio. Poi il fatto che il nonno si chiama Modesto Finocchio, questa cosa aggrava tutto, capito? Ma cazzo fai a chiamarti Modesto Finocchio? È incredibile. Non lo so, non lo so. Era pure brutta, una cosa bruttissima. Vabbè, adesso questo. Luciani, poi ti devo dire una cosa da Dimmi. Tanto tempo che mi è molto deluso. Come, che è successo? Di quando hai invitato in trasmissione quel porco di Giuliano Ferrara con quei denti gialli. Vabbè, ma è successo un anno fa, amico mio, un anno e mezzo fa. E che ha fatto di strano? Ma che dici? Una cosa orrenda, gli hai fatto la domanda classica alla Parenzo. Cioè? Cosa ne pensi di Grillo? Ma che cazzo è che ne pensa quello di Grillo che scrive sul foglio? Che è da 20 anni che si ciuccia soldi pubblici, quel porco schifoso di Ferrara. Porco schifoso, mi sembri Donato. Porco schifoso, Stefano, Antona, vai. Porco schifoso, Stefano, quello, ciao, Stefano. Che beh, bel modo di argomentare, bravo. Vai, bello. Stefano, vai. Ancora. Vergognati, vergognati. Buonasera. Dimmi. Vorrei dire a Parenzo. Sì, eccoci. Che tutti saremmo contenti di vivere in una società che non è il Far West. Ma vorrei che Parenzo subisse... Sì. Esperienze come altri hanno subito. Grazie, la notte... grazie. No, aspetta, grazie. Aspetta, sì, grazie. Che non voglio fare. Tipo farti. Cosa? Grazie. Tipo che la notte di Natale di 4 anni fa ho avuto un assalto in villa, dopo aver svaligiato la villa, sì. Stavo nella dependente, sì. 4 banditi, sì. Armati di una mazza da 10 kg, sì. Hanno sferrato un attacco buttando giù le mura. Sì, e che hai fatto tu? Mi sono difeso. Come? Ho sparato. Hai ucciso? Hai ucciso? E disgraziatamente è morto. È un trauma per tutti. Ma io disgraziatamente io non me ne fatto pentirei. Bene, però io mi pare che sia fuori dal che io non me ne mi pentirei. Pare che non sia finito in galera giustamente. È un trauma per tutti. Hai subito un processo? Dico... Hai subito un processo? Beh, questo per forza. Certamente. Ho avuto 2 anni di processo. Due sono anni. Stato prosciolto. Per due anni. Prosciolto. Due ed anni. È stato giustamente due prosciolto. Due anni. Come hai passato questi 2 anni, Stefano? Come si può passare 2 anni? Ma giustamente è stato prosciolto. Di quello che è successo. Oh, ma che rimorso, vedi, erano ladri armati di mazze. Non te... Che rimorso. Il rimorso di aver tolto una vita comunque ce l'ha, perché lui, a differenza di quel criminale che l'ha assalito, lui è una brava persona e quindi chiaramente non gode Stefano, a uccidere un altro. Stefano, ti chiamo domani, dobbiamo chiudere, che bravo, mi fanno segno che dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani, ciao ragazzi. Ciao. Andatevene a fanculo, idioti. Sparatevi che è meglio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.